Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Inizieremo parlando con gli imprenditori, i manager e imprenditori. Ripartono i nostri viaggi tra le aziende, anche grandi gruppi che stanno investendo, che cercano di comunque accelerare l'uscita dal tunnel, come dicono quelli che hanno studiato. E oggi sarà la volta del numero uno di Tre Italia, Vincenzo Novari, per capire come si stia investendo nel settore delle telecomunicazioni, nel caso specifico appunto il gruppo Tre Italia, quali siano anche gli scenari che vedono profilarsi e anche qualche problemuccio che hanno avuto le compagnie telefoniche multate recentemente dall'antitrust. Ne parleremo subito in apertura perché sarà il nostro ospite in diretta. Poi invece parleremo della borsa. Allora, oggi le borse sono leggermente positive, leggermente Milano. Le altre vanno meglio. Milano guadagna lo 0,27%, guadagnano praticamente un punto percentuale in più sia Parigi che Francoforte. E basta, perché Londra fa più 0,7, e invece l'America guadagna lo 0,4%. Questa mattina è molto forte l'Asia, sia Hong Kong con l'Hang Seng più 1,6, sia Tokyo più 2,3% con il Nikkei. Certo, l'Asia non risente dei temi greci, la Grecia è dentro l'euro e quindi riguarda solo noi. Che cosa sta succedendo sulla Grecia? Beh, dedicheremo di nuovo tutta la seconda ora del programma a questo evento e a questa notizia, soprattutto perché sono ritornati sopra i 700 punti, quindi 7% la differenza tra quanto rende praticamente quanto costa assicurarsi dal rischio Grecia, il credit default swap, e quindi il premio sul rischio, se fossimo un'assicurazione parleremo così, ed è di nuovo un record. Sono saliti ai massimi anche quelli sul Portogallo, quindi quanto costa, quant'è il premio che devi pagare per assicurarti su un investimento in Portogallo al 3,2%, quelli sulla Spagna all'1,8%, quelli sull'Irlanda al 2% e anche quelli sull'Italia all'1,4%. Ma insomma, per dare il senso delle proporzioni, visto che spesso sentiamo dire c'è la Grecia, poi arriverà il Portogallo. La Grecia è a 700 punti come costo, come premio sul suo rischio. Il Portogallo segue a 318 e comunque siamo a meno della metà. Poi arriva la Spagna a 200 e siamo quindi a un terzo di rischio, di premio sul rischio rispetto alla Grecia. Poi arriva l'Irlanda a 180 e poi arriva l'Italia a 140, quindi insomma siamo ben distanti da un livello di allarme. Lo dico a tutti quelli che poi ci chiedono: ma la Spagna e l'Italia? La Spagna e l'Italia sono ancora messe abbastanza bene per quello che riguarda il premio sul rischio paese. Sono tornati a salire anche i rendimenti delle obbligazioni greche rispetto a quanto rendono le obbligazioni tedesche, e questa di nuovo non è una buona notizia, lo continuiamo a spiegare. Più rende un'obbligazione, più vuol dire che è rischioso chi chiede il prestito, come avvenne ai tempi dell'Argentina, ricorderete, o ai tempi di Cirio e anche Parmalat in qualche modo. Sono ai massimi dal 1998, cioè da quando esiste sulla carta l'euro, praticamente all'8,93% quanto rendono i bot greci a 10 anni, quelli che potremmo chiamare i BTP a 10 anni. Greci, una cifra spaventosa, se pensate che il costo del denaro è all'1%, e quindi il denaro preso in prestito dalla Banca Centrale Europea rende l'1%, e invece la Grecia, per riuscire a ottenere dei finanziamenti sul debito, deve offrire l'8,93%, quasi il 9%. Secondo molti osservatori la Grecia è già tecnicamente in default, ha un debito che è identico a quello italiano sul PIL, 125%, ha però un deficit che è al 13%, quello italiano viaggia al 5%, e soprattutto ha un sistema fiscale, ne parleremo più avanti, in cui non si riesce in questo momento nemmeno a frenare la fuga di capitali che, da quello che leggiamo, stanno andando dalla Grecia verso la Gran Bretagna, verso il Lussemburgo, verso altri altri luoghi, comprando casa soprattutto, ma non solo, luoghi dove non possono essere trovati. L'euro è tornato per questi motivi sotto quota 1,33 a 1,3290. Poi si è ripreso, siamo a 1,3340. Il Portogallo ha visto anch'esso volare al massimo, al record dal 1997, il rendimento dei suoi titoli di Stato a 10 anni, al 2%, quindi ben al di sotto del 9% quasi greco, ma sempre record è. E anche l'Italia ha visto salire i rendimenti dei suoi BTP non a record, ma non si vedeva un rendimento di quel tipo dal luglio del 2009. Quindi parleremo di investimenti dei manager delle grandi imprese, poi parleremo della borsa, poi anche della Grecia nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms. Chiuderemo, scusatemi, come ultimo tema sull'Expo, perché oggi alla presenza anche del Presidente del Consiglio Berlusconi si è fatto il punto su come è messo l'Expo, e l'ex ministro Castelli ha detto: attenzione, non possiamo escludere, anzi diamo quasi per certo, che alcune opere dell'Expo saranno commissariate, il che è già una missione di un grosso ritardo. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms e le altre notizie in breve. Le altre notizie in breve. Partiamo dal petrolio, perché apre e rialza $85 al barile a New York. Il diesel invece va oggi in Italia ai massimi dall'ottobre 2008. Ancora l'euro, l'abbiamo detto, così come gli spread, ossia le differenze tra quanto rendono le obbligazioni italiane, spagnole e greche a questo punto, e anche portoghese rispetto a quelle tedesche. Parleremo di Grecia anche per capire come mai la Germania, che è uno dei paesi più esposti verso la Grecia, quindi se la Grecia dovesse fallire il danno per l'economia tedesca sarebbe 6 volte superiore almeno a quello per l'economia italiana, la Germania invece continua a dire no, i soldi ve li diamo solo se fate altri sforzi, e intanto quindi arriva il Fondo Monetario Internazionale a dare i primi 15 miliardi, e poi ha detto l'eventuale uscita della Grecia dall'euro non è un'opzione. Vabbè, io capisco che insomma in Germania il 10 maggio ci sono le elezioni, quindi c'è tantissima tattica politica nelle parole di Angela Merkel, ma insomma questa resistenza tedesca, essendo poi loro così esposti verso le banche tedesche, così esposte verso la Grecia, delle volte risulta abbastanza incomprensibile. Il vertice Berlusconi-Putin che si è tenuto a Lesmo, Monza, Villa Gernetto, si è parlato, per quello che riguarda i temi di economia, soprattutto di nucleare. Dopo aver ricordato che l'Enel realizzerà in Russia una centrale nucleare, Berlusconi ha detto: entro 3 anni, ossia dentro questa legislatura, partiranno i lavori per costruire la prima centrale nucleare in Italia. Volete sapere dell'Expo Milano? Allora, oggi a Milano è stato presentato il cosiddetto Master Plan, quindi quello che sarà il disegno di questo Expo. Un'isola di circa 110 ettari, circondata da un canale parzialmente navigabile, percorsa da una strada centrale lunga circa 1 miglio, lungo cui si trovano gli appezzamenti dei 140 paesi. L'Expo è dedicato infatti all'alimentazione, alla sostenibilità alimentare. 130 nazioni, una strada che incrocia la via di 325 metri dove trovano spazio l'Italia e le sue regioni. Comunque, ne parliamo nella seconda ora, quindi abbiate fiducia. Se Roberto Castelli ha detto, che è vice ministro delle infrastrutture, ha detto c'è già un decreto legge che consente di nominare i commissari per quelle opere che vadano in crisi con i tempi, il sindaco di Milano Letizia Moratti ha detto: io ho già il potere da commissario per la metropolitana 4 e per la metropolitana 5. E allora, come scrivono alcuni di voi, lo usasse, visto che tra l'altro insomma il ritardo su queste opere è abbastanza noto, ma ne parleremo più avanti. Ancora l'ultima notizia in breve è quella che riguarda la banda larga, e quindi entriamo nel tema degli investimenti in infrastrutture informatiche. Non ci sono solo i ponti, i treni e le gallerie. Questo paese è arretrato dal punto di vista del cosiddetto digital divide, ossia la possibilità di mettere tutto il paese in rete, non di avere alcune aree del paese in cui gli affari si fanno in maniera più competitiva perché hai la banda larga, e altre aree in cui ancora viaggi come nella preistoria per quello che riguarda internet. La banda larga, ha detto oggi il presidente di Telecom Italia Gabriele Galatea di Genola, è essenziale perché funzioni il nuovo sistema di posta elettronica certificata per i cittadini riservato alla pubblica amministrazione, una cosa che quando sarà operativa permetterà praticamente di non andare più davanti agli sportelli. C'è una rivoluzione di tempo, costi, efficienza, però serve il canale per fare viaggiare questa cosa che si chiama appunto banda larga. È, ha detto Galatea, essenziale dare impulso allo sviluppo della banda larga per colmare appunto il cosiddetto digital divide, che riguarda ancora il 10% degli italiani, cioè stiamo parlando di circa 5 milioni e mezzo di persone. E iniziamo questa puntata di Focus Economia partendo proprio da questo tema. E allora restiamo in tema di telecomunicazioni, di bilanci delle compagnie telefoniche. Ci siamo occupati nel passato di Vodafone, di Telecom, dei principali gruppi operanti in Italia, ma anche per capire qual è il futuro di questo settore, dove arriveranno i margini in un settore che ha sofferto, anche se più per una riduzione dei prezzi complessivi che non per la crisi di questi ultimi due anni. Oggi ne parliamo con Vincenzo Novari, che è l'amministratore delegato di Tre Italia, società di telefonia mobile che molti di voi immagino conoscono perché ha 9 milioni di clienti ed è controllata da sempre, diciamo dagli ultimi anni soprattutto, da una multinazionale cinese. E anche questo è un aspetto interessante. Hutchison Whampoa è il nome, principale operatore al mondo delle linee UMTS. Prima di tutto i dati, anno comunque difficile anche per Tre Italia, perdite operative nette in calo del 50% nel 2009, i ricavi dai servizi sono calati invece del 5% sul 2008 a 1.650 miliardi di euro. Da lì un taglio di costi, di sussidi che dovrebbe permettere risparmi per 350 milioni, ma anche due accordi importanti firmati, quello con Ericsson per lo sviluppo di una rete in banda larga mobile di generazione futura, e quello con Telecom Italia per condividere i siti di accesso alla rete radiomobile. Vincenzo Novari, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, veniamo ai numeri di questo 2009 e soprattutto alle proiezioni sul 2010. Ricordavo che avete firmato due accordi importanti con Ericsson e in esclusiva e con Telecom, se ho ben capito, di condivisione invece per massimizzare i risparmi e minimizzare i costi. Dicevo però anche di un calo dei ricavi del 5%. Come si sta muovendo questo 2010 per il settore delle telecomunicazioni dal vostro punto di vista? Ma permettimi innanzitutto di rettificare il dato 2009, nel senso che la diminuzione dei ricavi è in grande parte giustificata dal fatto che noi abbiamo una tariffa che è la terminazione entrante, cioè tutto il fatturato che noi facciamo per terminare le chiamate che vengono indirizzate ai nostri clienti, che è un prezzo che viene definito dall'autorità delle telecomunicazioni e che ha visto nel 2009 una riduzione importante. E ovviamente questa riduzione non dipende dall'andamento del business, ma dipende semplicemente dalla regolamentazione della tariffa. Quindi, al netto di questo effetto, cioè comparando i numeri del 2009 con quelli del 2008 omogenei, in realtà i nostri ricavi sono cresciuti di un 6%. Sì, però questa dimostrazione che, come dicevo all'inizio, il settore della telefonia ha sofferto meno, cioè vuol dire le contrazioni si sono avute negli anni passati perché, come dimostrato banalmente anche dall'Istat, in questi anni i prezzi dei servizi base della telefonia sono calati costantemente, quindi per voi si sono ridotti i margini. Ma non è stato un settore particolarmente colpito dalla crisi, o mi sbaglio io? Ma diciamo che nella sua totalità non è stato sicuramente uno dei settori che ha sofferto di più, ma soprattutto per un'inversione di tendenza. L'inversione di tendenza è che, a fronte del trend della voce, che evidentemente ha subito una grande contrazione soprattutto dei margini, data la concorrenza e quindi dato l'abbassamento generale delle tariffe, ha visto invece un incremento importante del mondo dei dati. Cioè, la grande rivoluzione di questi ultimi due anni è l'esplosione del mondo dei dati mobili. E qui ci ricolleghiamo a quanto ci disse un anno fa, forse un po' di più, Francesco Caio, uno dei padri, mio ex capo. Il suo ex capo è uno dei padri anche anagraficamente, biograficamente, della telefonia in questo paese, quando ci spiegò che ormai il mondo della telefonia era un mondo che nei servizi base, cioè la voce come la chiamate voi, la telefonata classica, era un mondo destinato a diventare una specie di utility, cioè tu paghi un abbonamento e poi che tu parli un'ora o che tu parli 10 ore alla fine cambia poco, il che vuol dire per voi però come operatori avere i margini di guadagno non sulla voce, non sulla telefonata classica, non su quante ore sto al telefono, ma sui servizi aggiuntivi e quindi, come lei ricordava, l'uso di dati, che poi vuol dire internet soprattutto, e altre informazioni. Veniamo a questo punto, perché vorrei capire come si stanno muovendo i servizi aggiuntivi per poi arrivare alla banda larga e all'integrazione tra i vari settori. Voi avete stimato che su 15 milioni di italiani che hanno uno smartphone, cioè un telefono di quelli che permettono di fare altre cose oltre a parlare, navigare e quant'altro, solo un terzo usi completamente a pieno regime i servizi offerti. Sì, noi italiani siamo tendenzialmente molto attenti alle novità dal punto di vista tecnologico, soprattutto quando si parla di elettronica di consumo personale. A oggi quello che è evidente è che il principale utilizzo di questi smartphone è il cosiddetto browsing, cioè con questi smartphone si fa della voce e poi si va su internet per fare né più né meno quello che si fa su normale PC di casa. Il punto dei servizi a valore aggiunto oggi sta trovando una rivisitazione un po' generale proprio a causa dell'esplosione di questo internet mobile. Che non è allora, solo il BlackBerry. Non è solo il BlackBerry. La posta elettronica, ma è anche le previsioni del tempo. Assolutamente, la previsione del tempo, è la ricerca delle indirizze, la ricerca della mappa, e la ricerca dell'informazione che uno vuole andare a cercare sulla rete. Più 180% l'incremento del traffico dati, quindi appunto tutto ciò che non è voce, sul telefono nel 2009. Questo a dimostrare che è vero che gli italiani poi comprano un telefono perché fa figo e non solo per le applicazioni che ha, ma è anche vero che comunque l'aumento c'è e più si scoprono i servizi, più questo cresce. Tra l'altro voi avete il 10% nel settore telecomunicazioni mobili, ma avete il 30% in Italia sempre, per quello che riguarda il mercato dei servizi internet mobile, quindi la parte solo dedicata ai dati. Ma questo è evidentemente proprio il risultato di una strategia. Noi, diciamo la verità, abbiamo fatto molta fatica nel 2005, 2006, 2007 proprio perché questo mercato dei dati mobili non vedeva una sua crescita importante. Noi abbiamo costruito dal 2000, con un investimento di oltre 6 miliardi di euro, abbiamo costruito un'infrastruttura che era proprio mirata a trasportare dati sui cellulari e quindi evidentemente abbiamo aspettato molto con grande ansia, abbiamo sofferto molto nel 2004, 2005, 2006, 2007 e poi quando improvvisamente questo mercato è esploso chiaramente ci siamo trovati in una situazione di vantaggio perché avevamo costruito dall'inizio l'infrastruttura proprio per fare questo. Su questo vorrei arrivare però a quello che può fare anche il sistema paese, e cioè abbiamo discusso molto in questi mesi di banda larga, i soldi erano spariti, poi sono tornati, parlo dei soldi destinati al governo in finanziaria. La banda larga vuol dire ridurre quello che in gergo si chiama digital divide, cioè la differenza che c'è tra aree del paese in cui i servizi sono garantiti e i dati viaggiano velocemente, aree non coperte, e quindi ridurre anche la differenza, che rischia di essere una differenza come tra la fine 800, tra chi era alfabetizzato e chi era analfabeta, tra chi sa usare i computer, sa accedere alle fonti, anche perché la rete glielo permette, e invece parte del paese che rischiano di diventare aree di serie B. Il tema è serissimo perché di infrastrutture non si può parlare solo per quello che riguarda i ponti o le autostrade. Come stanno andando gli incentivi relativi alla banda larga? Perché da quello che ho visto sono arrivate 40.000 domande di contributo per un totale di 2 milioni di euro solo nei primi 4 giorni. Sì, il governo giustamente ha cercato di andare a stimolare questa domanda di banda larga soprattutto nei giovani, cioè questi incentivi sono destinati ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni, mm-hmm, e danno sostanzialmente la possibilità di avere un'attivazione di una linea di banda larga a condizioni particolarmente 50 euro di sconto. 50 euro di sconto. Questo ha permesso sia a noi come agli altri operatori mobili e agli operatori di rete fissa di lanciare delle offerte ribaltando se non più i 50 euro che erano stati previsti di rimborso dal governo, e evidentemente sta permettendo un incremento importante in questi ultimi giorni di questo tipo di attivazioni. E quindi un po' come nel settore auto, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, è chiaro che poi i produttori aggiungono agli incentivi del governo incentivi loro. Certo. Detto questo, arriviamo agli investimenti in banda larga, perché insomma qui secondo me il tema, io lo vedo anche dalle risposte che arrivano, viene percepito come un tema un po' freddo. Cioè se si dicesse si sono trovati 800 milioni di euro per costruire un tratto, uno svincolo autostradale, nessuno avrebbe nulla da obiettare. Quando questi soldi devono arrivare per dotare il paese almeno di un accesso a internet decente, non veloce ma decente, nelle aree anche più remote e particolarmente veloci in altre aree, c'è più freddezza anche nell'ascoltatore. Quanto è importante per voi l'aspetto infrastrutturale per non lasciare l'Italia poi ai margini anche dello sviluppo? Guardi, questo è un tema su cui mi piace più parlare da cittadino addetto ai lavori che non da amministratore delegato di Trenitalia, nel senso che, voglio dire, quando si parla di infrastruttura in fibra per coprire tutto il territorio, è evidente che l'interesse egoistico dell'azienda che rappresento è quella di costeggiarla più possibile, perché evidentemente meno c'è banda larga fissa e più chi fa banda larga mobile se ne avvantaggia. A me piacerebbe lanciare un segnale di rottura di queste sorte di egoismi personali o aziendali. Io credo, come ha detto ai lavori, che la dotazione di un'infrastruttura a banda larga sia per il paese un'opportunità unica, che, come dire, facciamo fatica a vederne le immediate ricadute sull'economia del singolo, ma nella realtà è esattamente l'opposto. Cioè, voi pensate che noi siamo una nazione dove ci sono tra le 5 e le 7 milioni di piccole imprese, imprese che hanno da 2 a 5 dipendenti. Ecco, il fatto di mettere tutte queste imprese in rete e renderle aperte a un mercato globale potrebbe far fare uno scatto alla nostra economia e alla nostra società assolutamente unico. Gli investimenti sicuramente vanno fatti per recuperare lo svantaggio che abbiamo rispetto ad esempio a tanti altri paesi europei, ma ogni tanto sarebbe bello anche pensare a un investimento che è volto a fare un qualcosa che gli altri paesi non hanno ancora. Una infrastruttura in banda larga potrebbe permetterci tutto questo e avrebbe degli effetti tangibili sull'economia di ciascuno. Cioè il piccolo imprenditore che opera nella più sperduta provincia italiana potrebbe dotarsi di un sito, di una piattaforma che lo potrebbe aprire alle transazioni con tutta un'altra serie di paesi. Soprattutto quello che è il grande vantaggio di internet è recuperare lo svantaggio geografico, perché è chiaro che se tu stai a Milano sulla direttrice Trieste-Torino hai un vantaggio geografico rispetto a stare in alcune aree. Assolutamente sì, però ecco, la notizia che è uno degli esponenti di picco della Confindustria Veneta ha denunciato che il 50% delle piccole imprese che appunto sono nel Veneto non hanno un accesso a banda larga. Questo investimento è secondo me una priorità assoluta del nostro paese. È più importante dell'autostrada del sole, perché potrebbe permettere di connettere tutte le aziende italiane a una rete globale, potrebbe permettere a tutta una serie di piccole aziende informatiche di costituirsi per offrire servizi a queste piccole e medie imprese, e potrebbe far ripartire un volano che noi sappiamo di per certo che l'investimento e la dotazione di una rete in banda larga porta un incremento di un punto e mezzo sul PIL. Sì, anche perché è chiaro che l'Italia, oltre che essere lunga e stretta e diciamo montagnosa, come si dice con una battuta, è anche fatta di piccolissime imprese, quasi 8 milioni, mentre in altri paesi dove le imprese sono medio grandi, lì questo problema ce l'hai molto meno, perché un'impresa grossa ha già dentro le risorse per dotarsi poi dei collegamenti e del sistema infrastrutturale in senso telematico. Ancora due domande. Voi siete controllati, come ricordavo, da un cinese, da un gruppo cinese importantissimo, Ah, ci sono un po'. Com'è lavorare per i cinesi? Visto che è una domanda che molti imprenditori si stanno facendo magari per il futuro. È un'esperienza che credo molti dei miei colleghi manager italiani dovrebbero fare, perché sicuramente l'attenzione degli azionisti di Hong Kong, come quelli che io ai numeri, è un'attenzione, come dire, ossessiva, però dall'altra parte devo dire che esiste una grandissima, un grandissimo trust, cioè da una parte c'è una grande delega, credo, come dire, virtù sconosciuta agli imprenditori italiani, dall'altra parte c'è una grande invece attenzione all'analisi del risultato. E quindi, voglio dire, si passano grandi giornate a parlare di numeri, mentre noi siamo circa 3.000 dipendenti in azienda, non abbiamo un cinese, non abbiamo uno straniero, abbiamo la totale autonomia su tutte le iniziative, su tutte le azioni che noi intendiamo intraprendere sul mercato. Un'altra cosa particolare è l'assenza di orpelli. Questo gruppo che controlla noi controlla anche altre 60 aziende in tutto il mondo. In ogni azienda in 50 paesi del mondo, pensate, sono 60 aziende in 50 paesi del mondo, in ogni paese il management è totalmente locale. A controllare queste 60 aziende, cioè l'headquarter di questo gruppo Acison One Poi è composto da 100 persone. C'è un capo diciamo dell'area finanza, un capo dell'area legale, sono loro tre e non hanno staff, non hanno niente, cioè loro si occupano direttamente con i vari amministratori delegati delle aziende e quindi, come dire, esiste un rapporto di diretto, esiste tanta velocità, esiste una semplicità di relazione ed anche un risparmio di costi spaventoso. Sì, voi siete fortunati che questi erano cinesi di Hong Kong, quindi assolutamente hanno pragmatismo cinese, sì. Pragmatismo britannico assieme, però è importante, massima delega, massima autonomia e massimo però controllo dei risultati. Tra virgolette, chi se ne frega come li hai raggiunti, l'importante è che tu li raggiunga. No, questo l'ho aggiunto io, no, ci mancherebbe. Però l'etica da noi loro è forte? È assolutamente un must assoluto. Io devo dire, ho avuto anche delle esperienze importanti in quest'ottica qui, nel senso che noi abbiamo costruito una rete sul territorio andando a mettere 9.000 impianti sul territorio e devo dire che abbiamo, come dire, un po' l'orgoglio di non aver mai pagato un euro a nessuno per avere una via di favore o per avere un trattamento privilegiato. Qualche lira però l'avete pagata alla Gcom, perché anche voi siete stati multati 58.000 euro come altri operatori, 290.000 euro a carico di Telecom Italia, Wind, Fastweb, Tiscali Italia e Tele2. Il motivo, voi, dico non solo voi ma tutti i gestori, non fornite adeguata assistenza gratuita ai clienti e rendete poco trasparenti i processi di mobilità, vuol dire quando voglio cambiare gestore. Che succede? Vi è venuto il vizio dalle banche? No, per carità, magari ci fossero venuti vizi delle banche, in realtà non è assolutamente così, in realtà la verità è che purtroppo per offrire un'offerta molto ampia, molto allargata, molto, molto segmentata, bisogna complicare i processi. Molte volte non riusciamo a essere così veloci, non riusciamo a dare delle risposte che dobbiamo dare proprio perché abbiamo delle macchine che tecnologicamente da gestire sono di una complessità assoluta e a volte in questo scivoliamo anche in errori, in lentezze, in omissioni che poi ci portano alle giuste condanne che l'autorità ci vuole. Quindi, dottor Novale, ci sta dicendo che state più attenti nel rendere più facile il passaggio da un gestore all'altro e appunto. Ma noi abbiamo, anche noi personalmente, ovviamente, essendo rendere più piccoli, veramente gratuita l'assistenza ai essendo clienti. I più piccoli ci abbiamo solo che da guadagnarne. Va bene, con questa promessa io ringrazio il numero uno di 3 Italia, amministratore delegato Vincenzo Novali. Arrivederci a tutti. E adesso andiamo in pubblicità meteo e poi la borsa, più 0,25% Milano, più 1,20% Parigi invece, più 1,20% anche Francoforte, più 0,70% Londra, l'America guadagna lo 0,30%, Milano quindi ha guadagnato un punto in meno rispetto alle altre borse europee, i motivi si chiamano un po' le banche, un po' Mediaset, un po' Telecom, un po' Bulgari. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo, dopo aver toccato i temi, come sempre, le notizie in breve della giornata e aver parlato con Vincenzo Novali, numero uno di 3 Italia, degli investimenti soprattutto nelle infrastrutture digitali. Attenzione, in questo paese si parla di infrastrutture sempre e solo come infrastrutture terrestri, opere diciamo, di costruzioni, ma non sono da meno per la competitività delle imprese quelle di carattere digitale. Lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666. Detto ciò, la borsa. Dicevamo, Milano positiva ma di almeno un punto percentuale in meno rispetto a Parigi e Francoforte. Cosa ha zavorrato Piazza Affari? Bulgari meno 2,90, Mediaset meno 1,60, Ansaldo meno 1,1, Atlantia meno 1 come Telecom, come Mediolanum e come la Popolare di Milano. Fiat meno 0,70, così come Snam Rete Gas, lo 0,5 lo ha perso Luxottica ma anche Impregilo. Positivo comunque l'indice, appunto, dello 0,2%, grazie anche a Tenaris più 4,1, Prismian più 1,80, Generali più 1,3, Buzzi Unicem più 1,2 come Saipem, l'1,1 lo guadagna Fondiere Assai e Italcementi, Pirelli più 0,90 come Azimut e Autogrill, lo 0,80 lo guadagna Exor ma anche Lottomatica. Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, le generali nella prima settimana post Bernheim, nella nuova era Geronzi, guadagnano l'1,32% e tra l'altro ci sono anche i dati sulla raccolta premi e poi il balzo di Tenaris. Esatto, generali, evidentemente il mercato premia l'avvicendamento ai vertici che peraltro già si conosceva da tempo e poi accoglie positivamente anche i dati sulla raccolta dei primi tre mesi dell'anno, che sono saliti del 16,2% a 20,8 miliardi e tali indicazioni sono state appunto accolte positivamente dal mercato, che ha premiato la compagnia assicurativa con questo progresso. Ancora dicevamo di Bulgari sul fronte opposto, invece, ma insomma è andata molto bene la settimana scorsa, qui mi sembrano anche un po' di realizzi, meno 2,90. Esatto, la settimana scorsa in 5 sedute i titoli di Bulgari hanno messo a segno un progresso dell'11%, sulle indicazioni sì. Ricordiamo che ha dato l'amministratore delegato Trapani in assemblea, secondo le quali il fatturato, il giro d'affari della società è in rialzo nei primi tre mesi dell'anno, nei primi due mesi in particolare è cresciuto all'intorno dell'8%, marzo probabilmente è andato anche meglio. Su queste indicazioni i titoli erano saliti molto, oggi sono scattate le prese di beneficio. Allora, volete sapere, lo dico chi scrive al 349-238-6666 dell'Intesa San Paolo, o meglio della Compagnia San Paolo, la fondazione, la parte torinese, la fondazione per quello che riguarda il gruppo Intesa San Paolo. Allora, oggi non si è discusso del rinnovo degli organi della banca, un tema che abbiamo già affrontato, l'uscita di Salza, il desiderio di avere in scarico di alcune componenti più torinesi, alcuni dice vicino alla Lega, appoggiato a sorpresa a Chiamparino, l'alternativa di Beltratti, non se ne è parlato. Ha rinviato il confronto a un'apposita, il consiglio di indirizzo della Compagnia San Paolo ha rinviato il confronto a un'apposita riunione successiva alle nomine. Questa notizia, ma anche altre, oggi hanno in qualche modo raffreddato qualunque tipo di acquisto sulle banche, perché la Pop Milano appunto ha perso lo 0,90, Monte dei Paschi meno 0,35, insomma tutte abbastanza debolucce, tranne Unicredito che guadagna lo 0,12 e il Banco Popolare più 0,6%. Sì, esatto, oggi c'è stata un po' di disaffezione nei confronti del comparto bancario, che si è mosso appunto in modo contrastato a Piazza Affari, peraltro non seguendo invece quella che è la performance degli istituti di credito europei. Il sottoindice europeo del settore bancario è salito infatti dell'1,5%, mentre, come hai notato tu, a Piazza Affari i titoli delle principali banche sono rimasti praticamente al palo o addirittura hanno perso qualche punto percentuale. Allora, guardiamo anche i migliori e i peggiori. Green Vision più 14,6, Indesit Company più 6,8, Poltrona Frau più 5,80, Bolzoni più 5,4, Caltagirone Editore più 4,20 e bene Tenaris e Siemens. Fronte opposto, la peggiore è la Roma Calcio dopo la sconfitta rimediata in casa con la Sampdoria, meno 9,2%, Richard Ginori meno 3,94, Intec meno 3,4%, Aeroporto di Venezia meno 3,1%. La pubblicazione della trimestrale di Ansaldo non ha portato entusiasmi sul titolo, Eleonora. No, infatti i titoli sono andati peggio del listino, hanno perso sul finale l'1,15%, sono rimasti deboli per gran parte della seduta. Il mercato non ha accolto positivamente il fatto che l'utile della società sia calato dell'8% nei primi 3 mesi dell'anno, e ci sono alcuni analisti che hanno espresso perplessità, sebbene la maggior parte rimanga positivo sull'azienda. E allora ancora di Fiat abbiamo detto 10,5 euro, proprio calma oggi, meno 0,7%, volete sapere di Exor, positiva, continua la divergenza tra i due titoli, più 0,80% Exor. Grazie Donora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore, traffico, e poi restiamo in tema di finanza, di banche, di questa posizione tedesca rigidissima, nonostante la Germania sia il paese dopo la Francia più esposto verso la Grecia. Anche oggi è tornata a dire: i greci prima devono fare i compiti a casa, poi avranno i nostri soldi. Allora, dicevamo della Grecia e delle novità di oggi che riguardano, come ormai ahimè da alcune settimane, i rendimenti delle obbligazioni greche e quanto costa assicurarsi contro il rischio Grecia, il premio che viene pagato alla polizza su chi compra debito greco, i cosiddetti credit default swaps, anche questi in aumento. Ripetiamolo, non fa mai male, quando aumentano i rendimenti di queste cose, cioè di un'obbligazione o di un CDS, non sono buone notizie per chi, per la Grecia in questo caso, vuol dire che costa molto di più di prima trovare persone disposte a prestarti soldi, quindi devi offrire molto di più. La Grecia ormai sta viaggiando quasi al 9%, l'8,90% in quello che è il rendimento dei suoi BTP a 10 anni. Ora, se si considera che appunto il costo del denaro in Europa è all'1%, e quindi quello che costa prendere i soldi della BCE è l'1%, capite come ormai la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e quanto rende un'obbligazione greca sia una differenza di 7 punti percentuali di rendimento. Sopra i 700 punti, infatti, il rischio sul debito della Grecia, e anche i CDS sono balzati al massimo storico, quindi le polizze, i premi polizza, diciamo, per il rischio greco sono balzati a 713 punti. In rialzo oggi però anche quelli sul Portogallo a 318 punti, sulla Spagna a 184 punti, sull'Irlanda 200 punti e anche quelli sull'Italia 139 punti. E ancora i rendimenti, aumenta la differenza tra i rendimenti anche nel caso italiano, e cioè la differenza, lo spread italiano è aumentato non è una cosa drammatica, però insomma è ai massimi dal luglio 2009, la differenza tra quanto rende un BTP italiano e un Bund tedesco, e il premio e il rendimento anche delle obbligazioni portoghesi è volato invece a un nuovo record, vale 203 punti, la differenza con quello che rende la Germania, e quindi siamo al rendimento più alto per il Portogallo dal 1997, e anche questa non è necessariamente una buona notizia. Ci colleghiamo allora con Bruxelles, dove c'è il direttore del Centro di Studi e di politica economica e sociale di Bruxelles, Daniel Gross, buonasera. Buonasera a Bruxelles. Allora, la domanda è molto semplice, io non le farò domande tecniche sui rendimenti, ne abbiamo già parlato altre volte, però oggi abbiamo visto la Germania, tra ieri e oggi, tornare a dire, l'ha detto anche la Merkel poco fa, da un lato l'eventuale uscita della Grecia dall'euro non è un'opzione. Le condizioni devono essere rispettate, però poi ha detto, insomma, occorre il ministro degli esteri tedesco Westerwelle ha detto la Grecia deve fare i suoi compiti a casa prima di ricevere un aiuto finanziario, e la Merkel ha aggiunto la Grecia deve mostrare che va verso uno sviluppo durevole. Insomma, la Germania, che è il paese più esposto verso la Grecia dopo la Francia, è il paese che sta di fatto bloccando i 30 miliardi, i 15 miliardi del Fondo Monetario sono cose ormai date per scontate, ma i 30 miliardi europei divisi appunto tra i diversi paesi, la Germania ne darà 8,5, vedono questa forte resistenza tedesca. Secondo lei è solo tattica elettorale, visto che il 10 maggio si vota in Germania, in due land importantissimi in Germania? sì, infatti non è una politica che è fattibile a questo punto. La Germania ha dato il suo accordo per gli aiuti per la Grecia già qualche mese fa e all'epoca le condizioni erano solamente il programma di aggiustamento europeo e quello la Grecia lo ha rispettato, per cui politicamente a questo punto non è possibile dire no. Mm. Per cui cioè, la Merkel e anche il ministro degli esteri quando parlano, parlano all'opinione pubblica tedesca, secondo lei, non parlano, diciamo, non ci stanno descrivendo quello che faranno realmente, vogliono rassicurare i tedeschi? Sì, vogliono rassicurare i loro elettori, perché loro naturalmente è più importante essere eletti, ma parlano in questo modo anche per una ragione sostanziale, si accorgono purtroppo soltanto adesso che il programma di aggiustamento che loro stesso avevano approvato qualche mese fa non era un programma serio e che la Grecia molto probabilmente non potrà neanche nella migliore delle ipotesi rispettarlo. Si rendono conto adesso che ci vuole tutto un altro tipo di programma molto più serio, molto più lungo e voglio dire adesso soprattutto diamo i soldi, sì, ci siamo impegnati, ma vorremmo anche che la Grecia faccia un programma più serio. Allora, dicevo che però la Germania è il paese più esposto dopo la Francia dei paesi europei verso la Grecia. Le banche francesi hanno prestato 76 miliardi di dollari alla Grecia, le banche tedesche 43 miliardi, l'Italia pochissimo, 5 miliardi e mezzo. E allora le chiedo, fermo restando che la Grecia ha un'evasione fiscale che è pazzesca, il nero è il doppio di quello italiano, quindi siamo già a livelli record, il 30% del PIL è al nero, è in nero, che i capitali stanno scappando dalla Grecia verso la Gran Bretagna, anche lì il fisco greco diciamo, è ancora più lasco di quello italiano se possibile, che le spese militari, come giustamente ci ha ricordato un nostro ascoltatore, sono altissime in Grecia, il 4,5% del PIL, l'Italia arriva scarsamente a poco più dell'1%, e anche lì potrebbero rinunciare a qualcosa nelle spese militari, non sta giocando col fuoco la Germania, cioè se la Grecia poi non reggesse, loro rischiano 43 miliardi, perché sappiamo che le cure del Fondo Monetario sono un po' le cure come quando si usavano i salassi nel Medioevo, si mettevano le sanguisughe così uno poi moriva prima. Delle volte il Fondo Monetario invece che migliorare peggiora con il giro di vite. Daniel Gross. Beh, ma quello che propone il Fondo è quello che è inevitabile, comunque se la Grecia vuole veramente pagare magari anche soltanto interessi sul suo debito. Ma la Germania si sta rendendo conto che i primi 30 miliardi dalla parte europea sono solamente un assaggio, ecco. Ci vogliono altri 100 alla fine. Altri 100? Almeno, perché si sa che la Grecia ha delle scadenze future, ci saranno altri deficit, i mercati finanziari non sembrano disposti a dare alla Grecia neanche un centesimo a un prezzo ragionevole, per cui sanno che se dicono sì adesso non potranno molto probabilmente dire no la settimana prossima o dopo, per cui si dicono vale la pena mettere i primi 30 e poi seguiranno altri, o paghiamo magari direttamente alle nostre banche, così almeno i soldi rimangono in casa. Sì, no, voglio dire, adesso, se i soldi fossero solo 30 miliardi, dicevo, 30 miliardi, la Germania deve metterne 8,5, la Francia 6,5, l'Italia 5,5. Se però i miliardi diventano 100, cioè oltre a questi 30 altri 100 miliardi, a spanne la Germania dovrà metterne altri 24, la Francia altri 18 e noi altri 15, che non so dove andremo a trovarli. Sono prestiti, però lo dico a chi scrive, cioè c'è un rendimento, gli stati ci guadagneranno anche. Lei sta dicendo che la Germania potrebbe essere tentata di sistemare le sue banche e a quel punto scaricare la Grecia? E questo sarebbe un'opzione per la Germania, o ancora meglio magari dire tutte le banche devono anche fare la loro parte e poi noi come governo diamo anche un po' i soldi alla Grecia, così non è solamente lo Stato tedesco che paga, ma anche i risparmiatori tedeschi e altri che sono stati così imprudenti da prestare alla Grecia. Ho capito, grazie Daniel Gross, dottor Gross, perché insomma con questa profezia di 100 miliardi oltre i 30 ha gelato anche molti ascoltatori che vedo che scrivono a 349-238-6666. Grazie al direttore del Centro di Studi sulla politica europea, Daniel Gross, in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera. Allora, alcuni scrivono, ma la Grecia spende soldi per la rivalità con i turchi sulla difesa. Ho capito, ma adesso mi sembra che il problema sia un altro, i turchi ce li hanno in casa. Comunque ci sentiamo dopo il GR 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti, seconda parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. E allora, dalla Grecia, sulla Grecia, passiamo adesso all'Expo. Molti di voi stanno scrivendo dopo le parole pronunciate qua in diretta da Daniel Gross, che è appunto direttore del Centro per gli Studi Politici e Economici Europei a Bruxelles, che ha detto insomma la Grecia avrà bisogno di altri 100 miliardi di euro di prestito, oltre ai 30 più 15, cioè 45 già concessi. Devo dire che questa cifra dei 100 miliardi non è una cifra che così sentiamo per la prima volta. Sono rimasto anche sorpreso perché speravo fosse solo una stima così abbastanza pessimistica. In realtà la cifra dei 100 miliardi è uscita anche sul Sole 24 Ore dello scorso 23 aprile. Un articolo di Enrico Brivio citava appunto la possibilità che si arrivasse a un'altra iniezione da 100-110 miliardi per riportare i conti sotto controllo. Attenzione, perché voi chiedete sempre dell'Italia, avete ragione, ma l'Italia ha un deficit PIL al 5,5%, ha avuto un calo del PIL pesantissimo, meno 5%, ma in linea con Germania, la Francia ha fatto un po' meglio. Il deficit francese però è andato peggio del nostro, all'8,5%. È vero che noi abbiamo un debito in proporzione pari a quello greco, il 125% del PIL, ma insomma è il deficit quello che conta poi anno su anno. E comunque, guardando i rendimenti dei nostri titoli di Stato e guardando quanto costa la polizza assicurativa sul rischio di comprare Italia, non c'è paragone. I CDS sono a 139 e quelli greci sono ampiamente intorno a 800 e passa punti, per cui siamo a 8 volte tanto. Detto ciò, l'Italia ha bisogno di trovare 1 miliardo e 200 milioni per realizzare l'Expo 2015. Oggi presentato a Milano il Master Plan per l'Esposizione Mondiale 2015, a pochissimi giorni dall'inaugurazione di quella che sarà invece l'Expo di Shanghai, che aprirà, se non ricordo male, il 1 maggio, ma vado a memoria, quindi non prendetemi sul serio, come spesso succede. Noi saremo il paese ospitante il prossimo Expo. Finalmente c'è un master plan, ma salta già fuori l'ipotesi di alcuni commissariamenti. ...110 ettari circondati da un canale parzialmente navigabile, tagliati a metà, non lo possiamo mostrare in radio, da una strada centrale lunga circa 1 miglio, quindi 1,7 km si potrebbe dire, sì, in cui si trovano gli appezzamenti dei 140 paesi presenti, una strada che incrocia poi la via di 325 metri dove si trovano lo spazio Italia e le sue regioni, un parco botanico, un anfiteatro, 5 diverse zone climatiche con le coltivazioni tipiche di ogni clima, un lago grande come lo stadio di San Siro. Questi alcuni degli elementi illustrati oggi nel master plan, nel progetto di massima dell'evento. Il costo, insomma, gli investimenti ammontano a 1,7 miliardi, gli investimenti previsti contro i 3,2 miliardi inizialmente indicati, la spesa di gestione dell'evento vale un altro 1,2 miliardi, sono spariti alcuni progetti che a noi, che siamo obbligati a abitare a Milano, piacevano molto, tipo i raggi verdi, quelle piste ciclabili verde che devono partire dal centro di Milano e andare verso l'Expo, così come i raggi blu, mi sembra che si chiamassero, quindi i canali, le vie d'acqua, i canali d'acqua che dovevano arrivare in qualche modo riutilizzare i navigli. Queste cose non ci saranno più, vi sarà solo un'area espositiva nella zona RO, però il problema sarà anche sapere cosa ne fai dopo. Peccato per l'urbanistica di Milano, perché potrebbe essere un'occasione per trasformarla in una città un po' più vivibile. E comunque i tempi sono l'oggetto. Sentiamo il vice ministro delle infrastrutture Roberto Castelli, che ha detto: attenzione, siamo in ritardo, e per qualche opera potrebbe essere necessario il commissariamento. I numeri che abbiamo di fronte, anche più prudenziali, ci dicono che Milano per un certo periodo diventerà uno dei poli attrattivi del mondo, quindi stiamo vedendo adesso l'interesse che ha Shanghai, per cui è un'occasione veramente importante, anche perché è diventato il catalizzatore per fare quelle opere di cui la Lombardia ha assolutamente bisogno. Sì, i tempi tecnicamente sono molto stretti, sono ancora, diciamo, fattibili, ma veramente non abbiamo più neanche un giorno da perdere. La legge c'è già, che è il decreto legge 185, che consente di nominare i commissari per quelle opere che eventualmente vadano in crisi con i tempi. Fino a questo momento non sono stati necessari, potrebbe darsi che nell'immediato futuro per qualche opera si rendano necessari. Inizia l'ipotesi dei commissari. Devo dire che non tanto sottoscritto, ma Salvatore Carrubba, che è direttore qui al Sole 24 Ore delle strategie editoriali del gruppo, ma è stato anche assessore alla cultura e ai musei del Comune di Milano, Giunta Albertini, se non ricordo male. Buonasera Salvatore, innanzitutto. Ciao Sebastiano, buonasera a tutti. Devo dire che qui l'ipotesi commissari la stiamo facendo da un anno, perché i ritardi presi prima nel decidere chi doveva essere commissario, un annetto buono. Poi nell'insediamento di Stanca, non ce ne voglia Lucio Stanca, però insomma un altro anno per decidere dove insediare a Palazzo Reale, quale deve essere il gettone di presenza, quante cariche puoi tenere. Intanto gli anni, i mesi passano e gli anni passano, è ovvio che si arriverà ai commissariamenti. Comunque il traffico, e poi vorrei sentire il tuo commento su questo, Salvatore, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Salvatore Carrubba, ti farei sentire però anche cosa ha detto Letizia Moratti, sindaco di Milano, così cerchiamo di capire che è questa storia dei commissari. Va dato credito a Paolo Piacenza di aver realizzato tutte e due le interviste. Allora, Letizia Moratti che ha detto in sostanza: attenzione, io ho già i poteri di commissario straordinario per la metropolitana 4 e 5. Due nuove linee metropolitane dopo 20 anni. E prevede per l'Italia la possibilità attraverso Expo di valorizzare il Made in Italy italiano, di valorizzare il turismo, di creare 70.000 nuovi posti di lavoro e avere un fatturato aggiuntivo che va dai 40 ai 60 miliardi di euro. È un piano certamente che valorizza il territorio, il paesaggio, sarà un Expo che disseminerà progetti di sviluppo in tutto il mondo, quindi in questo senso è una Expo visionaria. Stiamo lavorando intensamente, abbiamo avuto i finanziamenti dal governo, quindi siamo ottimisti per rispettare i tempi per tutto, quindi il piano di il dossier di registrazione è stato consegnato nei tempi utili e lavoriamo per un grande, bellissimo progetto. Allora, così Letizia Moratti, vedo che invece alcuni ascoltatori se la prendono con me perché dicono che parlo dell'Italia come un esempio di conti pubblici da seguire. Veramente posso aver detto tante cavolate in questi anni, ma una cosa del genere non l'ho mai detta. Abbiamo solo detto che chi vuole affiancare il rischio greco all'Italia in questo momento non trova riscontri sul mercato, ma da lì a dire che l'Italia sia un modello della gestione dei conti pubblici, vabbè. Allora, Salvatore Carrubba, andiamo sulle cose serie. Qui parte l'ipotesi commissario. Evidentemente è una missione indiretta, che c'è un ritardo nei tempi, e vorrei anche che tu chiosassi però su questa frase di Letizia Moratti che ha detto: io ho già il potere da commissario per linea metropolitana, perché a me verrebbe da ignorante da dire vabbè, utilizza sindaco questo potere, perché per fare due linee, la metropolitana 4 e la 5, mancano 5 anni scarsi. Sappiamo quelli che sono i tempi per bucare anche Milano. Prego. Ma questa vicenda del commissariamento mi sembra abbastanza surreale, perché il vice ministro Castelli è stato esplicito e ha detto: M4 ed M5, le due linee metropolitane, sono molto in ritardo, bisogna partire immediatamente, e quindi non ha escluso il commissariamento. A lui gli ha risposto subito il presidente della regione, che si è un po' irrigidito dicendo: facciamo tutto noi, e il sindaco Moratti, che ha detto: ma veramente il potere da commissario li sto già usando io? E addirittura le hanno chiesto: ma è già commissario e non lo sapevamo? E lei risponde sì, quindi una vicenda abbastanza curiosa. E dice, c'è anche poi il commissario Stanca. Sì, e poi dice: ho già mandato le lettere delle gare, ho esercitato i poteri da commissario per le linee M4 e M5. Quindi o il vice ministro Castelli non sapeva cosa fa il commissario dell'Expo straordinario, cioè il sindaco di Milano, oppure il sindaco di Milano si arroga dei poteri che non sono i suoi, ma non credo, insomma un po' di confusione c'è. Detto questo, se poi fra 5 anni questa confusione darà vita a questo progetto visionario di cui ci ha riparlato oggi il sindaco, naturalmente saremo tutti contenti. Per quello che riguarda le linee della metropolitana, l'altro aspetto ha a che fare con il master plan. Questo possiamo dire che comunque, cioè che da questo momento in poi su questa Expo non ci saranno più motivi per ritardare, cioè arrivato il disegno finale che è molto molto ridotto rispetto a quello che ci ha fatto vincere l'Expo, tra l'altro anche questo non crea... Non crea nessun problema, cioè noi abbiamo vinto con un progetto e poi andiamo a realizzare un altro. Beh, questo credo di no, perché già nei giorni passati era stata mandata la lettera al comitato e mi sembra che il comitato avesse approvato, quindi secondo le notizie che sono arrivate in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, anche grazie all'appoggio che ha avuto il progetto inviato a Parigi dal Presidente del Consiglio, mi sembra di poter dire che il progetto milanese sia stato approvato. Ecco, da adesso i tempi dovrebbero essere più stretti, visto che si inizia a parlare di commissari da un lato, e dall'altro, ma se arrivano dei commissari per le opere principali, metropolitana, magari qualcos'altro, stanca viene ridimensionato? Non solo stanca viene ridimensionato, non solo la domanda, ma oggi qualcuno ha sollecitato una risposta sul tema se ci sarà poi un direttore generale che debba affiancare Lucio Stanca, il quale ha risposto: a sua volta non vedo questa necessità. Quindi mi pare che c'è un piccolo fronte anche su questo fronte, nel senso che alcuni vorrebbero supportare, puntellare o semplicemente, non dico controllare, ma insomma affiancare all'amministratore delegato Stanca qualche altro personaggio, e quindi evidentemente c'è qualche lotta sotterranea di potere ancora in corso. Sì, l'Expo ci ha abituato a questo per ora, lo dico col massimo rispetto, ma insomma è importante che la sede fosse a Palazzo Reale in pieno centro e non a Rho. Importante che vi fosse un commissario, importante la retribuzione del commissario, importante sapere che potesse tenere la doppia carica. Vorrei capire però a un certo momento quando avremo i piani delle opere, perché per fare una metropolitana, l'area espositiva personalmente mi preoccupa meno, perché ma per fare una metropolitana i collegamenti, gli la parte anche ferroviaria, devi iniziare a fare gli appalti e poi avere il general contractor se facciamo una cosa tipo grandi opere e poi iniziare a bucare la città. Per le metropolitane i progetti ci sono e il sindaco ha già detto che, avvalendosi appunto di questi misteriosi poteri, ha già mandato le lettere delle gare, quindi appunto si dovrebbero trattare di linee cantierabili, come si dice in brutto linguaggio burocratico, e per il resto certamente una volta risolta, come pare risolta anche quella questione della proprietà delle aree, della concessione di queste aree alla società Expo, adesso dovranno cominciare a elaborare i progetti, non più i rendering sui computer, ma i progetti esecutivi per l'esecuzione delle opere. Che ne sarà dell'area? Si è capito, perché ce lo chiedono ogni volta molti ascoltatori, e che sappiamo che l'Expo di Hannover è stato un disastro da questo punto di vista, è costato solo soldi e i tedeschi tendono ad essere abbastanza precisi come popolo. Ragionamento analogo si può fare anche per l'Expo di Siviglia, anche lì l'area che doveva far rinascere l'isola della Cartuia, se non ricordo male, completamente abbandonata a se stessa. I cinesi invece a Shanghai hanno fatto una cosa diversa, hanno proprio creato una nuova città, ma insomma lì non stiamo ragionando di proporzioni analoghe. Che ne sarà dell'area? L'Ordine degli Architetti qui di Milano ha fatto nei mesi scorsi un'indagine su questo, esaminando tutte i vari casi. A una serata ho partecipato anch'io, abbiamo parlato di Lisbona, che forse da questo punto di vista è stato uno dei casi più fortunati. Lì si è fatto un grande ponte, insomma si è ristrutturato un'area che oggi è vitale e viva. Certo, il tema è quello, perché una volta che queste aree saranno, questi terreni saranno venduti da parte della società, quale sarà la destinazione urbanistica al di là del grande orto planetario che rimarrà come simbolo permanente dell'Expo? Su questo, sulla sistemazione urbanistica di quell'area e sulla sua utilizzazione, non mi pare che le idee siano chiare. Ed è lì che si annidano, come dire, non i sospetti, ma sicuramente le incertezze e le domande sul fatto che quell'area e quell'occasione diventi un'opportunità di recupero, per esempio, come tu accennavi prima, del grande patrimonio idrico della città e del patrimonio agricolo a sud della città, ovvero diventi un'occasione per carità legittima, ma comunque di interventi urbanistici. Sì, io dico in maniera un po' così, da normale cittadino, iniziassero adesso a partire le opere, perché certo, già abbiamo rinunciato, e lo dico, certo, mi dispiace molto, ai raggi verdi, le piste ciclabili, le vie d'acqua, almeno iniziamo a vedere i buchi della metropolitana, che i disagi partano, ma almeno sappiamo che, certo, sono disagi che porteranno qualcosa alla città. Adesso c'è tutto, i commissari, I soldi, ci sono, il master plan c'è, iniziassero a partire con il nostro in bocca al lupo. Intanto grazie a Salvatore Carruba, direttore strategico generale del gruppo Sole 24 Ore. Buona serata a tutti. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Vi do un aggiornamento dall'America. L'America guadagna lo 0,24%, l'euro è sempre debole, non sotto quota 1,33 a 1,3319. Novità dalla Grecia non ne arrivano, per ora è tutto. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.